amarti un po' con me stasera. Sai, la penso come te, riuscire a fingere non è facile. Quante volte abbiamo detto no, non si può ritornare indietro a vivere momenti che non scorderò, non scorderai mai. Questa notte tornerò nel tuo letto scomodo e disfatto come la mia anima. Quel tuo corpo sentirò stasera.